SV HT, grupo crudo, duro em dub, e vai così. Di darsena, darsela a gambe automatico, tra auto che bracca, me attacchi di panico, stasse, luci basse, jolle grasse, masse di musse più strette di gasse, in assanna, niente manna che casca dal cielo, velo nero, fiato corto, tipo Marlon in fronte del porto, fra torretta e birro, oh, e di fisso c'è uno sbirro, di fisso c'è un cacirro, di fisso c'è qualcuno che Gustavo gira un porro, e se Brando è sempre lui, siamo sempre solo noi, a ripetere e ripetere il monologo di Terry Malloy, a rimpiangere ciò che non è stato ciò che non sarà mai, quindi vai, dico bye bye. Don't wanna be stuck in a sauna. Ora bamma, ora bamma, to be stuck in a sauna. Ora bamma, to be stuck in a sauna. C'è chi sgobba, chi snobba, chi zibba, c'è chi ti gabba con la roba per la sbobba, sanna s'addobba, libera barabba, c'è chi s'abbronza sotto gli occhi di Garibba, chi ha lo spot, già da un tot, sta tentando col sentiero della logica la Spock, ma bisogna bossarsi la stecca, cadaste parti sono selvaggi alla Ciubacca, tanto che Wolfgang Alibegovic arretra mentre Sminchioli ci attacca, a testa bassa. Cittadina cronica, cacofonica, allofobica, caos ed aria di città, mentalità paesana, pesanti ed inerti fantasmi sospesi tra due fine settimana, vista strana, la vita s'appanna, don't wanna be stuck in a sauna. Ora bamma, to be stuck in a sauna. Ora bamma, to be stuck in a sauna. Scratch di DJ Jazzy Jungle in Free Sound, generazione nuova, sassa c'è, kundo e prova, come stona quando sanna suona fuori zona, yeah. All'assista, bella bestia, al consiglio dei Gustavi a chi resta, al compianto collettivo libertario, uè da tutti i garage del circondario. Ora mamma, to be stuck in a sauna. L'ultima per l'anima scomparsa, l'occasione persa, il risvolto tragico di questa farsa. Farsi forza e resistere a questa condanna. I will see you again in a sauna. I will see you again in a sauna. I will see you again in a sauna.